Capitolo 9. Dobbiamo gettare le fondamenta di un'alleanza. Non possiamo accelerare la loro transizione verso una società più libera, ma dobbiamo fare tutto il possibile per aiutarne lo sviluppo. L'unità della vita è il nostro obiettivo più alto. Buongiorno, come ti senti questa mattina? Danny sbadiglia, mentre Natalia Korczak spalanca le finestre per cambiare l'aria nella stanza. Ha un pezzo di stoffa davanti alla bocca, stretto con due lacci dietro la nuca. Invece di rispondere alla sua domanda, la ragazza le chiede cosa sia. «È per precauzione», dice la capo infermiera. «Ricordi il prelievo di sangue che ti ho fatto? Le prime analisi dicono che potresti avere una malattia che si trasmette col respiro. Oggi sapremo se è davvero così. Nel frattempo, meglio non rischiare». C'è un bel sole e una brezza di fine estate che corrobora lo spirito. «Io sto bene», dice Danny, e si alza dal letto per raggiungere il bagno che si trova in corridoio. Cammina diritta, ben salda sulle gambe. Quando torna, la capo infermiera le ha già messo le lenzuola pulite. «Non dovevi, potevo farlo da sola». «Potevo anche farmi aiutare dall'infermiera, se è per questo, ma non sono ancora così vecchia da non riuscire a rifare un letto». Danny si avvicina alla finestra, inspira e osserva il viavai di mezzi, gli alberi ai lati del viale, gli uccelli che becchettano nel cortile. «È così bello!» «Che cosa?» «Tutto!» risponde Danny. «Tutto questo spazio! Peccato per i motori! Bruciano sostanze fossili, vero?» L'altra la guarda perplessa, senza dire nulla. «Hai dei figli?» chiede ancora Danny. «No!» La ragazza si volta. «Tu non hai figli e io sono orfana. È una strana...» cerca la parola adatta. «Coincidenza!» La donna appare a disagio e indica l'anello ciondolo al collo di Danny. «Mio marito mi ha detto che quell'anello era di tuo padre». «Così mi è stato detto da mia madre», ribatte Danny. «Hai un ricordo anche di lei?» Danny scuote la testa. «Purtroppo no, però mi ha lasciato dei soldi vecchi, che adesso non valgono più. Li ho venduti a un collezionatore, sì, per comprare i biglietti del treno». Danny fruga in una tasca interna del cappotto, appeso al pomello della parete. Ne estrae una busta, dalla quale preleva la banconota sbrindellata. «Ho tenuto soltanto questa». La capo infermiera si avvicina e riceve la banconota da 500 rubli. «È il ritratto di un re dei tempi antichi, vero?» domanda Danny. «Lo zar Pietro il Grande», risponde Natalia Korczak, fissando il denaro. «Hai detto che ne avevi altre?» «Sì, 9 uguali», risponde Danny con candore. «Posso prenderla per un momento?» Danny esita, poi annuisce. «Grazie, te la riporto tra poco». Natalia entra senza bussare e deposita la banconota sul tavolo. «Che cos'è?» chiede Bogdanov. «Un fantasma», risponde la moglie, e ottiene in cambio un'espressione interrogativa. «Non ha soltanto l'anello, ha anche questa, e ne aveva altre», dice. Bogdanov solleva la banconota. «Credi che sia una di quelle?» domanda. «Volok non ha mai toccato quei soldi». «Come fai a dirlo?» ribatte Natalia. «Tu non eri a Tiflis». Bogdanov porta le mani alla fronte, come se volesse trattenere a forza i pensieri, indirizzarli sulla carta moneta. Sbircia da sotto la visiera di dita. «Volok rimase traumatizzato, impiegò mesi a riprendersi. Come potrebbe...» La voce si spegne davanti al cipiglio di lei. Bogdanov sospira. «Ammettiamo che ne avesse tenute alcune e che le abbia date alla madre della ragazza. Insieme all'anello», aggiunge lei. Bogdanov si lascia andare sullo schienale. «Rimane il fatto che io non ho la più pallida idea di dove sia costui. C'è stata la rivoluzione e la guerra civile. Ti pare che possa rintracciarlo?» «Chiedere non costa nulla», dice Natalia. Bogdanov le mostra i palmi delle mani. «A chi? Del gruppo di Kuokkala sono quasi tutti morti». «Non è vero. Recentemente hai visto Nadia», lo incalza lei. «Capisco che non sia la prima alla quale chiederesti, ma potresti provare con Maxim Maximovich». «Litvinov?» sbotta lui. «Manca solo che io vada a disturbare il vice ministro degli esteri per chiedergli se sa dove è finito un vecchio compagno». «Allora prova con gli insegnanti della scuola», insiste Natalia. Leonid la frequentava, no? Sì, certo. Sono io che non frequento più loro. Dal 1911. Non è vero. Bazarov ti è rimasto amico e con Liadov siete in buoni rapporti. Bogdanov la guarda storto e Natalia lo liquida con un'espressione di sufficienza, di chi sente odore di scuse. Le ho promesso che gliel'avrei riportata subito, dice, raccogliendo la banconota. Quindi se ne va spedita come è arrivata. Lui la segue con lo sguardo, ma gli occhi lo ingannano. Inquadrano la sagoma di Camus, stagliata sulla porta, con una valigia in mano e un ghigno sulla faccia. È come se fosse lì davanti, l'espressione truce, la benda sull'occhio. La soglia dello studio è quella di Villa Vasa. Simon Arkashi Ter Petrosian, detto Camus. Camus il bandito, Camus il pazzo, Camus l'eroe. Morto 5 anni fa, investito da un camion mentre andava in bicicletta nella sua Tiflis. Sepolto e immortalato in una statua nella piazza dove un tempo aveva assaltato il convoglio portavalori. Come può cambiare la considerazione di un uomo nella storia? Almeno non gli è toccata l'imbalsamazione, come a Lenin, come ai faraoni dell'antico Egitto. Eccolo sull'uscio, dopo aver percorso 3.000 chilometri da un capo all'altro dell'impero. Dopo i baci e gli abbracci, Krasin volle sapere se le sue granate avevano fatto il loro dovere. «Altro che», rispose Camus, li tenne appesi alle sue labbra per una sera intera, raccontando la storia della rapina e dei soldi. I soldi. Per settimane, mesi, anni, tutto sarebbe ruotato intorno a quei soldi. 340.000 rubli. Tanti se n'era ritrovati Camus nel carro quando era arrivato al rendezvous, in una casa sicura di Tiflis. Li aveva infilati in un materasso. Il materasso aveva viaggiato di letto in letto. Koba era scappato a Baku in attesa che le acque si calmassero, e così i compagni georgiani. La polizia era rimasta con un palmo di becco. «E Leonid?» domandarono. Si sentivano responsabili di averlo proposto per la missione. Camus si rabbuiò. Leonid Volok era sparito. Gli ultimi ad averlo notato dicevano che era salito su un treno per Baku, ma nella capitale azera non c'era mai arrivato. Probabile che la polizia l'avesse arrestato a bordo. Erano i rischi del mestiere di rivoluzionario. Camus ci si era giocato mezza vista. Durante i preparativi della rapina, una bomba era esplosa e una scheggia lo aveva colpito. Avrebbe potuto rimetterci la vita. Era previsto anche quello. Invece il suo turno sarebbe arrivato 15 anni dopo, nel modo più assurdo, investito in bicicletta. Lenin chiese se le autorità zariste sospettassero qualcuno. Camus ridacchiò, con l'occhio bendato. Sospettano chiunque. Anarchici, socialisti rivoluzionari, patrioti polacchi. Quella notizia li rincuorò. Il fatto che il partito avesse escluso le rapine di autofinanziamento li teneva al riparo delle indagini. Il problema era un altro, spiegò Camus. Nel salotto di Villa Vasa, con le tende tirate sulla finestra, aprì le valigie e mostrò il tesoro. 90.000 rubli erano in banconote di piccolo taglio, quelle si potevano spendere dovunque, ma i restanti 250.000 erano in pezzi da 500 rubli. La banca di Stato aveva i numeri di serie e sicuramente li aveva già trasmessi alla polizia e alle filiali dell'impero. A quell'ora non c'era una banca da Varsavia a Petropavlovsk che non avesse l'elenco e l'obbligo di denunciare chiunque si fosse presentato a cambiare le banconote. «Conosco una pittrice che potrebbe modificare i numeri di serie», disse Krasin. Lenin approvò l'idea. Ignatev ebbe l'incarico di affittare una dacia, comprare un microscopio e preparare il laboratorio per la falsaria. «Nel frattempo», disse, «cambieremo le banconote nelle grandi città d'Europa». Certo, la polizia zarista non poteva immaginare che il malloppo fosse così lontano dal Caucaso. E poi, Camus aveva detto, i sospetti su di loro erano vaghi. «Come viaggiamo con quei soldi addosso?» chiede Litvinov. Vista l'ora tarda, la decisione venne rimandata al giorno dopo. Al mattino, Natalia e Nadia proposero la soluzione. Stesero il cappotto di Litvinov sul tavolo, come un cadavere all'obitorio. «Ecco», disse Natalia, «se scuciamo la fodera, possiamo inserire le banconote tra il tessuto e la stoffa, dopodiché ricuciamo e il gioco è fatto». Un'ora dopo, Litvinov indossava il suo vecchio cappotto, che adesso valeva 10.000 rubli. Poteva funzionare. Anche i cappotti dei Camus, Liadov e Krasin, vennero imbottiti a dovere. «Non basta, serviranno altri volontari», disse Lenin. «E volontarie», aggiunse Nadia Krupskaya. «Le donne destano meno sospetti». Bogdanov si alza. Esce dal laboratorio, sopraffatto dai ricordi. In corridoio incrocia Vlados, che cammina in direzione opposta, abbottonando il camice. «Sono arrivate le culture della ragazza», lo informa il direttore, prima di raggiungere il suo studio. Sulla scrivania c'è una lettera per lui. La apre col tagliacarte e legge rapido le poche righe. Una raccomandazione del partito per il ricovero di un funzionario in esaurimento nervoso. L'appoggia da una parte, di fianco alla copia di Stella Rossa. Sfiora la copertina con le dita e sul frontespizio legge la dedica che lui stesso scrisse per Leonid, 20 anni fa, come ringraziamento per avergli ispirato il romanzo, con le strambe storie di viaggi interstellari che gli raccontò quando riemerse dal pozzo della nevrastenia. Il terzo indizio fa una prova, dopo l'anello e i rubli. Possibile che Leonid abbia intascato quelle banconote? Perché no? Nella sua convalescenza, in quei lunghi mesi del 1907, non poteva sapere che erano tracciate, quindi le donò a una donna. Una donna incinta di sua figlia, per di più, e che avrebbe lasciato con nient'altro che la promessa di un mondo nuovo. Nel frattempo i compagni cercavano di trasformare il tesoro in qualcosa di tangibile, come il calcio di una rivoltella. Camus andò a Parigi e riuscì a cambiare una parte dei soldi, quindi si spostò in Belgio per comprare le armi e infine in Bulgaria, dove acquistò 200 detonatori. «Sulla via del ritorno fermati a Berlino», gli aveva detto Lenin. «Vai a farti visitare l'occhio dal compagno Zhytomyrsky. È un ottimo dottore e conosce i luminari dell'università. Consegnagli questa mia lettera». Nessuno poteva sapere che Zhytomyrsky era stato reclutato dalla polizia segreta zarista già nel 1902, quando ancora studiava all'Università di Berlino. Nome in codice Andre. Camus lo contattò per una visita e gli consegnò la lettera di Lenin. Zhytomyrsky fece la soffiata ai suoi capi, che subito chiesero alla polizia tedesca di arrestare Camus. Quando gli sbirri piombarono nella sua stanza d'albergo, lo trovarono con un passaporto austriaco, opera della pittrice amica di Krasin, una valigetta con i detonatori e 20 carte da 500 rubli. Ricevuto il rapporto tramite l'ambasciata, il vice capo della polizia russa non ci mise molto a indovinare da dove provenissero le banconote e quale fosse il piano dei rapinatori. Così telegrafò ai dipartimenti di polizia di tutta l'Europa occidentale. «Arrestare chiunque cerchi di cambiare biglietti da 500 rubli, stop. Pericolosi rapinatori, stop. Massima allerta, stop». Quando la notizia dell'arresto di Camus arrivò a Kuokkala nel sul finire del 1907, era ormai troppo tardi per sospendere l'operazione. I compagni e le compagne erano già partiti, a ciascuno una meta. Una banca in un paese diverso d'Occidente. Ora però la polizia russa sapeva chi aveva architettato il colpo. E lo sapevano anche i menscevichi, i compagni di partito contrari alle rapine. Nessuno li avrebbe aiutati. Bisognava mettersi in salvo come si poteva, prima che da San Pietroburgo arrivassero ad arrestarli. Natalia e Nadia ripulirono l'intera casa, documenti, appunti, libri, vestiti. Ogni traccia del loro passaggio venne cancellata, bruciata nel camino della sala da pranzo o affidata ai compagni finlandesi perché la facessero sparire. Lenin andò a Helsinki, in attesa di una nave per Stoccolma. I porti principali erano sorvegliati dalla polizia. Per imbarcarsi dovette percorrere 3 miglia a piedi su un tratto di mare ghiacciato, fino all'isola dove il traghetto faceva scalo. A un certo punto il ghiaccio si ruppe e rischiò di affogare. «Che modo stupido di morire sarebbe stato», commentò Lenin 3 settimane dopo, quando si rividero a Ginevra, sani e salvi. Per arrivarci, erano passati da Berlino. Avevano conosciuto Rosa Luxemburg. Che perdita per il movimento operaio è stato il suo assassinio. C'era una sua frase che sembrava scritta apposta per confutare Lenin. Il marxismo deve sempre lottare per le nuove verità. Quella fuga d'inverno, nella stessa direzione, in realtà li stava portando allo scontro. La tregua filosofica stava per finire e il precipitare degli eventi segnò le sorti del confronto. Mentre rimettevano in piedi a Ginevra la redazione del Proletari, erano già in rotta. Come se non bastasse, il 1908 iniziò in modo terribile. Le notizie che arrivavano erano badilate di terra sulla loro bara. Litvinov venne preso a Parigi, alla Gare du Nord, mentre era diretto a Londra, con 12 banconote da 500 rubli cucite nel cappotto. Per sua fortuna, il governo francese non concesse l'estradizione in Russia e si limitò a espellerlo dal territorio nazionale. Lo spedirono in Irlanda, a Belfast, dove campò come insegnante di lingue. Negli anni successivi si sarebbe trasferito a Londra e sarebbe rimasto innamorato dell'Inghilterra anche una volta rientrato in Russia a fare la rivoluzione, per poi tornare in Gran Bretagna da diplomatico di una repubblica socialista. Lett, del gruppo di Zurigo, lo beccarono in una banca di Stoccolma. Olga Ravic, del gruppo di Ginevra, venne arrestata in una banca di Monaco. Quando vide i poliziotti avvicinarsi, cercò di ingoiare un pezzo di carta, rischiando di soffocare, ma glielo fecero sputare a forza. Nel biglietto c'era l'orario d'arrivo di un treno da Parigi. La polizia tedesca e il delegato dell'ambasciata russa si presentarono alla stazione e accolsero con un clangore di manette i due compagni caucasici, Bogdassarian e Koja Miriam, della banda di Camus. Dei ginevrini presero anche Semashko. Risalirono a lui perché Olga gli spedì una cartolina dalla prigione. Quando si presentò in banca, trovò i poliziotti ad aspettarlo. Dalla prigione chiese aiuto a suo zio, niente meno che Georgi Plekhanov, il maestro dei menscevichi. Viveva in Svizzera da molti anni e aveva contatti anche nella polizia. Ma il grande padre del marxismo russo rispose che se uno era tanto stupido da immischiarsi con le rapine bolscevichiche, meritava la galera. Krasin, uno degli scampati, procurò a Camus un avvocato che gli suggerì di fingersi pazzo. Il georgiano non se lo fece ripetere. Prese a rifiutare il cibo, a strapparsi i capelli, a mangiare le proprie feci. Simulò perfino un tentativo di suicidio. Lo estradarono in Russia soltanto nel 1909, dove lo processarono per la rapina e lo sottoposero a una commissione medica che lo torturò per smascherare la simulazione. Alla fine lo dichiararono insano di mente, confinandolo nel reparto psichiatrico della prigione di Tiflis. Lì Camus, l'attore, il più grande allievo di Stanislavski che il mondo abbia conosciuto, dopo 3 anni senza mai uscire dalla parte, segò le sbarre della finestra e si calò giù con una corda fatta di lenzuola annodate. Sarebbe poi tornato ospite della stessa prigione alcuni anni dopo, in seguito a una nuova rapina. Qualcuno dice che la tentò perché è impazzito davvero, come una falena che si brucia sulla fiamma. Altri sostengono che agì per nostalgia, sperando che un secondo colpo riportasse il gruppo all'armonia perduta. Bolscevichi di sinistra, così li aveva definiti Lenin in Finlandia. Ma ormai la Finlandia era lontana e anche la possibilità di essere ancora uniti, seppur diversi. Qualcuno bussa alla porta. Bogdanov impiega qualche secondo a reagire. «Avanti!» Vlados fa il suo ingresso nello studio. L'aria è agitata. Un leggero strato di sudore a imperlargli la faccia. «Direttore, dovreste venire in laboratorio. C'è qualche problema? La tubercolosi della ragazza. Dovete vedere».